Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Piazza Duomo 20, cuore di Milano. Ora questo locale ha cambiato pelle e vita. Nuova gestione, nuovo nome, ma i tempi in cui era il nuovo Roxy Bar gravitava nella galassia della criminalità organizzata, come un vecchio negozio nella Torre Velasca o un'impresa nel centralissimo corso di Porta Romana. Sono 610 beni immobili tolti dalle mani di mafia, 'ndrangheta e camorra in Lombardia, secondo gli ultimi dati del commissario straordinario del governo. 161 le aziende. Numeri e fatti nel bel mezzo delle polemiche sulle parole del prefetto milanese che ha negato qui l'esistenza della mafia. Fatto sta che in vista dell'Expo però all'ombra del Duomo cresce l'allarme per le infiltrazioni, soprattutto dell''ndrangheta. Il tenente colonnello Andrea Martinengo, a capo della GICO a Milano, il gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza. Io credo che il settore dell'edilizia, il settore immobiliare in generale, sia il settore strategicamente più importante. C'è tutta una serie di dinamiche molto interessanti che gli consente quindi non solo di acquisire grossi profitti, ma anche di rafforzare la propria presenza sul territorio e a utilizzare quel metodo mafioso che gli viene proprio, quindi dal vincolo associativo, gli consente appunto di esercitare questa pressione nei confronti delle persone che sono inserite in questo settore, consente appunto di esercitare questo vincolo associativo che li rafforza ancora di più. Quindi hanno il profitto economico, ma hanno anche il tornaconto di rafforzare la propria presenza sul territorio e poter esercitare questo metodo mafioso. E ovviamente a loro non sfuggono, diciamo, gli interessi e le prospettive anche di grandi attività e di grandi progettualità edilizia che c'è a Milano e nell'Interland, legata ai grandi progetti, l'Expo, ma legata anche alle grandi costruzioni che negli ultimi anni e che ancora ci sono, soprattutto nella zona dell'Interland milanese. Una spia in genere dei interessi malavitosi in questo settore è quella proprio del livello, se vogliamo, più basso, quello del Movimento Terra. Avete registrato dei segnali ulteriori di presenze, di infiltrazioni, danneggiamenti nei cantieri, o avete dei segnali specifici di rinnovato interesse malavitoso nei confronti di questi grandi lavori legati a sviluppo urbanistico della città e della sua cerchia? Ci sono anche recenti episodi di danneggiamento e quindi di minacce nei confronti di operatori economici che sono nel settore. E questo è parte di quel progetto di cui parlavamo prima, di inserimento e di rafforzamento loro nel settore immobiliare in generale. C'è un avvicinamento nei confronti degli operatori economici del settore che avviene prima con questi gesti e atti di intimidazione per indurre queste persone a andare dalla loro parte, quindi assoggettarsi quindi alle volontà dell'organizzazione mafiosa per poter lavorare nel territorio. È chiaro che il settore del Movimento Terra è il settore dove loro e le organizzazioni calabresi operano direttamente, quindi ci sono moltissime imprese che gestiscono il Movimento Terra che sono legate comunque vicino alle organizzazioni calabresi, ma quello è soltanto, diciamo, il primo di un anello che è appunto il mondo immobiliare, il settore edilizio. E di certo l'interesse dell'organizzazione criminale non si ferma all'aggiudicazione di una commessa relativa allo sbancamento terra, al Movimento Terra, ma evidentemente anche rivolta a poter fare e acquisire, diciamo, profitti in tutto quello che è poi l'indotto, no, successivo economico. Questo tipo di segnali, come i danneggiamenti, come le minacce, come episodi anche che ci sono stati anche in passato, non so, di spari su delle saracinesche di alcuni negozi, come li leggete? Che cosa significano secondo voi queste intimidazioni? Da quello che sono le nostre esperienze, da quello che viene fuori dalle attività investigative già svolte in questi casi, le dinamiche sono o quelle di cui si parlava prima, quindi di induzione a che l'imprenditore svolga o non svolga determinate attività che sono di interesse dell'organizzazione criminale, oppure ci sono stati casi in cui l'operatore economico era un ostacolo alla loro attività e doveva quindi essere estromesso, cioè non arruolato bensì essere estromesso dal da certi settori economici di loro interesse. Per cui sono dinamiche diverse, sono situazioni che vanno analizzate ognuno a sé stante, però in linea di massima è questo. Possiamo senza sbagliare dire che in questo momento, però, anche considerando il grande fermento che c'è intorno a Milano e intorno al suo hinterland, è più che mai un boccone ambito dalla malavita calabrese anche per i progetti sull'Expo. Non c'è dubbio che loro hanno una grandissima capacità di intuire quelli che sono i settori economici nei quali si possono ricavare i maggiori profitti, quindi è chiaro che l'evoluzione di quello che saranno gli sviluppi immobiliari legati all'Expo è chiaro che suscitano e destano estremo interesse nei loro confronti, ed è altrettanto chiaro che proprio in virtù di questo intuibile, diciamo, interesse loro, le istituzioni stanno ponendo una grandissima attenzione sia a livello investigativo sia a livello anche preventivo. Un problema così concreto che prima la Regione ha istituito un comitato legalità, poi il Viminale ha nominato il procuratore varesino Grigo alla guida di una commissione sull'Expo, le costruzioni e poi la droga nel monopolio degli affari dell''Ndrangheta che controlla anche molti locali. È vero sì che ci sono delle ingerenze, è un altro settore, diciamo, economico nel quale le organizzazioni mafiose hanno interesse, è quello dei locali, perché anche quello è un settore nel quale viene agevolata la conoscenza e il controllo del territorio. In questi locali o nelle vicinanze di questi locali c'è ovviamente anche un'attività di spaccio che però mi sento di dire non viene gestita direttamente da loro, ma viene gestita da organizzazioni di assolutamente minor livello che però effettuano questo tipo di attività illecita grazie al consenso che viene dato da parte dell'organizzazione forte mafiosa che, diciamo, è radicata in quella zona del territorio. Ci arriviamo a questo, un passo indietro ancora sui locali. I locali che significano presenza del territorio, anche fisica proprio, quindi soprattutto sì, locali notturni, ma anche ristoranti e anche in posti strategici della città. Alcune inchieste passate anche vostre hanno. Sai, il locale anche lì c'è una duplice funzione, cioè è comunque un'attività che, se ben gestita, rende moltissimo dal punto di vista economico, ma come dicevo prima, è importante perché ti dà la percezione, no, di quello che è il territorio, la presenza loro che sta nel territorio. Stiamo parlando di locali anche di moda o comunque di locali che hanno anche un nome, frequentati anche da gente normalissima, ci mancherebbe, non è che stiamo parlando di locali mal frequentati oppure ubicati in zone, diciamo, periferiche, difficili. Stiamo parlando di locali di grosso anche spessore, frequentati anche bene, nelle quali loro hanno questo tipo di interesse. Il primo interesse, ripeto, quello economico, perché rendono molto, ma è una opportunità in più che hanno per stare sul territorio, per conoscere cosa si muove. Non a caso, infatti, a Roma, per esempio, l''Ndrangheta era arrivata al Caffè de Paris di Via Veneto. Immagino che ci sia qualcosa di equivalente anche su Milano. Sì, diciamo di sì, però insomma. Lei diceva lo spaccio però non è gestito direttamente da loro, ma possibilmente anche da una manovalanza di più basso livello, e questo spesso chiama in causa anche malavita che proviene dall'estero. Come sono i rapporti tra le famiglie più potenti presenti e insediate da anni ormai a Milano e nei dintorni di origine calabrese e quelle, si parla sempre più spesso, non so, di malavita di origine slava o comunque soprattutto proveniente dall'est Europa o anche dall'Albania? Quali sono i rapporti? Guardi, io penso che il mercato della droga e in particolare della cocaina in questo momento è un mercato talmente vasto che lascia spazi a moltissimi poter operare, perché la domanda è sempre molto forte. È stato detto sempre, ma a ragion veduta, che, diciamo, che le organizzazioni calabrese mafiose hanno una fortissima potenzialità nel traffico della cocaina in particolare. Però, siccome questo mercato è così vasto, ultimamente si è notato che ci sono delle organizzazioni straniere di narcotrafficanti molto, ma molto forti sia da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista operativo e logistico, che hanno acquisito una capacità di effettuare importazioni veramente importanti di cocaina dal Sud America con un canale logistico proprio. Quindi in questo senso le organizzazioni mafiose italiane, parliamo della 'ndrangheta perché adesso stiamo parlando di 'ndrangheta, ma non solo loro ovviamente, si rivolgono anche a queste organizzazioni per l'acquisizione dello stupefacente già sul territorio. Quindi oltre ad avere i loro canali di importazione, abbiamo visto che le organizzazioni straniere che sono state indagate, che stiamo anche indagando, che effettuano traffico di stupefacenti, poi si rivolgono quale mercato d'acquisizione di questo stupefacente anche alle organizzazioni criminali 'ndranghetiste. Diciamo che le vendono all'ingrosso prima che al dettaglio. Questo vuol dire anche appunto una rotta diversa rispetto a quella che genericamente era stata tracciata nei rapporti tra le famiglie calabresi e direttamente i narcotrafficanti. Cioè si è in genere parlato di la Spagna o i Paesi Bassi. Questo vuol dire che appunto può arrivare nello specifico nella zona dell'Interland anche attraverso i canali di queste altre malavite. Certo. Che sono gli stessi o sono diversi? Avete potuto in qualche modo ricostruirli? Ovviamente l'origine è sempre quella, perché la produzione di cocaina avviene in Sud America ed è solamente lì. Però quello che abbiamo visto è che queste organizzazioni straniere adottano o gli stessi canali, nel senso, cioè canali diciamo come rotte, quindi la Spagna e i Paesi Bassi continuano ad essere sicuramente dei paesi nei quali diciamo come primo approdo in Europa della cocaina del Sud America, ma ci sono moltissimi stati, moltissimi sequestri anche in Europa dell'Est, che sono sequestri fatti a carico di queste organizzazioni, per i quali ci sono degli elementi informativi in corso di sviluppo comunque che fanno indurre che quantomeno parte di questa cocaina arrivasse a Milano o comunque in Italia in generale, e anche a organizzazioni calabresi. Quindi voglio dire, le rotte sono le più svariate, ognuno poi consolida dei canali di importazioni propri e li esplora anche i canali propri, perché voglio dire, anche loro devono diversificarli, no? Però le dico, ci sono stati dei grossissimi sequestri di cocaina fatti per esempio in Romania e in Bulgaria a carico di queste organizzazioni, e si sa che parte di questa cocaina perlomeno era destinata al mercato italiano. Che arrivava come? Soliti camion? Dalla Romania Italia, sì. E per quanto riguarda invece proprio i legami e gli accordi anche intorno ai grossi traffici illeciti, soprattutto di cocaina, sono esponenti, boss presenti sul territorio o anche appunto le famiglie di provenienza, quindi quelle che sono rimaste in Calabria, spesso diciamo scelgono questa piazza, la piazza milanese, anche per fare questo tipo di accordi? La particolarità, io credo, di Milano è questa: essendo una città poi molto dinamica, molto viva anche dal punto di vista finanziario, economico, la stessa cosa si può dire anche nel quella che è l'economia illecita, no? Quindi abbiamo notato già in diverse occasioni utilizzare la piazza di Milano per l'effettuazione di incontri, di accordi fra organizzazioni fornitrici e organizzazioni acquirenti di stupefacente, per la fattispecie, visto che stiamo parlando di famiglie 'ndranghetiste, fatte su Milano, quindi con mediatori o con soggetti che dalla Calabria vengono in questa piazza per concordare, accordare, definire i dettagli di certe operazioni illecite di importazione. Quindi non è detto che tutto ciò che qua viene trattato poi viene destinato al mercato esclusivamente di spaccio e comunque di consumo milanese. Qua vengono chiusi degli accordi relativi a grossi quantitativi di stupefacenti che magari vanno a servire mercati diversi nazionali, non solo Milano. Piazza d'affare anche per la malavita, con l'utilizzo anche di quella che nella economia diciamo lecita potremmo chiamare la figura di mediatori. Ne avete trovate i profili anche nelle vostre inchieste, anche per famiglie diverse? Sì, poi sono fenomeni tutti sempre in evoluzione, però è chiaro che ci sono dei soggetti che svolgono attività sia nei settori illeciti, quindi stiamo parlando di importazione, ma anche nei settori del reinvestimento dei capitali, che svolgono questo tipo di attività a favore di famiglie diverse. Quindi non è che ogni famiglia ha un suo punto di riferimento che possa essere quello che prende contatto col trafficante, oppure quello che fa il riciclaggio, reinveste o riutilizza o gestisce le imprese finanziate con. Ci sono dei soggetti che svolgono questo tipo di attività per conto di famiglie diverse. Laddove ci sono poi degli affari interessanti, si possono anche creare delle alleanze, no, tra famiglie diverse, quindi anche famiglie che hanno giù delle competenze territoriali completamente diverse l'una dall'altra, no? Storielle, storiacce. lo scrittore inglese Frederick Forsyth ha chiesto suggerimenti per il suo futuro libro sull''Ndrangheta e i suoi affari. Tutti gli investigatori stranieri gli hanno detto di andare a Milano, Bucinasco e Corsico, perché è qui che le cosche calabresi fanno affari. Qui sono insediate fin dagli anni 70, quando i boss furono spediti lontano dai loro feudi al confino, e qui a volte arrivano anche dalla Calabria per stringere affari. I business di sempre, come la droga, o nuovi, come il fotovoltaico. Il tenente colonnello del GICO della Guardia di Finanza, Andrea Martinengo. Sì, è vero che adesso la percezione, l'attenzione è rivolta nei confronti dell''Ndrangheta in maniera importante, però è altrettanto vero che qua ci sono presenze consolidate di soggetti comunque appartenenti anche a organizzazioni mafiose di altra origine. In linea di massima mi sento di dire che anche in questo caso ci sta una relazione di non belligeranza, o comunque di rispetto e di spazi reciproci che vengono dati all'uno agli altri, con anche però possibilità di effettuare comunque anche delle operazioni di investimento insieme, no? Laddove ci sia un'opportunità interessante, noi abbiamo la percezione che possa capitare. Il termometro che poi ci fa capire che ci sia questo tipo di equilibrio, diciamo, trovato, sta nel fatto che non si sono registrati per il momento episodi, diciamo, cruenti di sangue, insomma, diciamo. Ecco, e quale potrebbe essere il settore in cui riuscirebbero a trovare un comune accordo, diciamo, diverse malavite per investimenti? Quali sono le vostre spie? I settori di interesse sono tanti, come dicevamo prima, cioè quello di cui si parlava prima, l'edilizia, la gestione dei locali, piuttosto che anche l'esercizio di attività di ristorazione, ce ne sono diversi, e quindi non valgono soltanto per l'organizzazione calabrese, ma valgono per qualsiasi organizzazione. Ci sono settori interessanti, per esempio nel discorso dell'energia alternativa, è un settore per esempio molto interessante, nel quale essendo un ottimo investimento è verosimile che anche loro abbiano degli interessi specifici, no? Ci sono state delle inchieste anche partite dalla Calabria, come anche dalla Sicilia e anche da altre regioni del sud, ma soprattutto dalla Calabria, sulle tendenze, sugli investimenti della 'Ndrangheta nelle energie rinnovabili. Risultano anche a voi? Sì, è un settore perché effettivamente è un settore nel quale si possono veramente ottenere dei grandi profitti, per cui sono attività proprio di reinvestimento puro di capitali, no? Di provenienza illecita, poi se si è in grado poi di dimostrarne questa provenienza illecita, però non c'è dubbio che essendo un ottimo settore di investimento, se nuovo, perché appunto in Italia in particolare, cioè ci sono paesi dove per esempio l'attività e l'esercizio, diciamo, di impianti di energia alternativa è già consolidata da parecchio tempo, e nel quale per cui il contributo dello Stato viene ridotto, no? Di volta in volta, man mano che vengono aumentati. L'Italia e la Grecia sono i due paesi per esempio nei quali c'è stato meno sviluppo di questo tipo, per cui ci sono dei contributi che sono ancora appetibili, no? Per tutti, non solo per l'organizzazione criminale, e quindi laddove uno ha dei grossi capitali da investire ha un estremo interesse a investire. Quindi la presenza della malavita in una zona, in una città che è tra le economicamente e finanziariamente più importanti, la più importante italiana, chiama in causa il rapporto esistente tra l'imprenditoria sana e le minacce e l'ombra della malavita organizzata. In una delle ultime inchieste, che ha portato anche a degli arresti, il neo capo della direzione distrettuale antimafia di Milano, la dottoressa Ilda Cassini, aveva proprio detto: gli imprenditori stiano dalla parte dello Stato, denuncino anche i tentativi di estorsioni, di minacce o di richieste di pizzo. I rapporti tra anche imprenditori e famiglie 'ndranghetiste, le vostre inchieste ultime, che quadro tracciano? Il quadro è quello di un tessuto sociale imprenditoriale che, ovviamente senza generalizzare, però che crea i presupposti di questo tipo di interazione che c'è fra le organizzazioni criminali e il mondo imprenditoriale. Ovviamente, ripeto, con le dovute differenze, no? Però più, si è constatato già, ma anche in attività già concluse, in fase dibattimentale peraltro, di imprenditori che da vittime, diciamo, di un sistema mafioso ne diventano poi complici nel momento in cui cedono alla tentazione poi di anche loro ottenere dei profitti utilizzando poi i metodi mafiosi dell'organizzazione criminale. Quindi altro modo in cui l'imprenditoria sana, tra virgolette, viene avvicinata dalle organizzazioni criminali con un reciproco interesse è quello dei finanziamenti. Molte volte che accedere al finanziamento o accedere al credito secondo i canali ha un costo, ovviamente, che magari si ritiene, io ritengo molto a torto, che invece accedere a un finanziamento illecito da parte di questa organizzazione sia più agevole e sia più redditizio. In realtà poi non si rendono conto che cascano poi in un giro veramente difficile dal quale poi non riescono più a uscire, per cui diventano poi manovalanza o comunque strumento poi di queste organizzazioni per poter essere ancora più presenti sul territorio. E spia anche di questo rapporto di prevaricazione, favorito anche da un momento di una congiuntura di difficoltà e di crisi economica, sono anche l'aumento di usura. Usura è un reato interessante perché è anche un modo per rimpiegare i capitali da parte, da parte delle organizzazioni, e che anche questo, oltre agli altri, gli consente un'ingerenza, una presenza sul territorio. Ci sono anche casi in cui queste risorse finanziarie vengono date senza necessariamente essere date con i tassi interessi usurai. Anche possono essere date come investimento da parte delle organizzazioni che entrano quindi in quei settori dove vedono che c'è possibilità, stante le difficoltà o stante anche la comodità, no, sbagliata di qualche imprenditore che ritiene che sia più semplice, non avranno l'interesse usuraio come vantaggio, ma hanno il vantaggio di poter controllare quindi quei settori, quelle imprese nelle quali poi dopo possono poi ampliare i loro interessi. Ultima cosa, veniamo a voi. Una delle difficoltà anche di lavorare, di indagare su queste malavite organizzate, e che ciascuno di loro ha un loro codice, ma ciascuno di loro hanno anche espressioni linguistiche o modi di comportarsi che hanno dei messaggi in sé, si conosce con l'esperienza, ma a volte anche la comunanza di origini è importante. Voi da questo punto di vista come siete messi? Di rinforzi se ne ha sempre bisogno, già da già un po' di tempo questo settore operativo abbiamo potenziato, punto tale che abbiamo creato una struttura che si dedica esclusivamente all'approfondimento investigativo di quelli che sono gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari legati appunto a queste organizzazioni. Oltre a questo abbiamo delle unità invece investigative che fanno proprio un'attività investigativa a 360 gradi nei confronti di questi soggetti. Semplicemente, anche banalmente, parlando solo del dialetto, ci impone di avere delle persone che provengono dalle stesse territori di origine per poterle essere capaci di capirle e interpretarle. E li avete? Ne abbiamo poche. Più calabresi che indaghino contro la parte malavitosa della Calabria. Esattamente.